Avanti, chi è? Buongiorno. Il boia? Eh? Il boia? Sono zitto, sì. Gio Mari. Sì, Beh, perché sei rauco. Ma mi sento bene? Io ti sento bene, ho detto, perché sei rauco. Perché adesso rauco sono? No, c'è la voce un po' rauca. Beh, forse la voce mia è così, capito? Ho capito. Sono Gio Mari. Giuseppe. Sotto il ponte di Santa Maria. Di Santa Maria, sì, capito. Io sono in magazzino, capito? Capa, va bene, dai, già va bene. Sì, ci sentiamo, Giuseppe, dai, buon proseguimento. A dopo, dai, ciao ciao. Luca. E a nanna. Sì. Gio Mari. Via. Gio Maria. Dimmi, Giuseppe. Ehi, mi senti? Mi sento, dove sei? A casa sono. A momenti, a tratti ti sento. E mettiti in maniera tale che mi ascolti allora. Betty, cosa ne racconto? Per tanto, non ti sento. Buongiorno, Già sono sempre qua io. Ma se travaglia via. Adesso abbiamo finito. Adesso vediamo questa settimana, dai. Speriamo bene allora. Tutto bene in casa, sì. Si tira avanti. Detto però, a proposito, Luca, se ti serviva a salsiccia. Oggi non l'ho sentito, ieri sera di sfuggita. E basta, ma anche lui sa va a lavoro, penso che abbia già finito anche lui. No, già siamo visti, a te deve fare ancora una decina di giorni, dai. Ah, ecco, già vi siete sentiti allora. Un macello eti, un macello veramente, però bisogna piccolità quando si può. Allora. Vabbè, Giovanni, dai, che sono sul PC che sto scrivendo delle email. Ma lì metti, si riascolta, già sono all'ascolto, dai. Ricordati, mi ha fatto piacere il tuo ricettivo, saluto di casa e auguro ancora per l'anno nuovo, non ci avevamo sentiti. A tutti in famiglia, ok, ti. Va bene, Giovanni, contraccambiato tutti quanti, dai, ciao, ciao. Ok, ciao. Per carità, Qualcuno si è cagato! Ah, io l'ho fatto in Siria! A te, Dottino! Un canotto! Ti scendi, ho quella maniera di sì. Attento, gufo! E bucciate queste patate! E beh, grazie alle bucciate di bastardo! Ecco! Ho freschetto che oggi, eh! Patate, altro condimento, origano, olio, e osso, passa al forno, il forno, pizza pronta! Bello bene, le lettere di pollo bene stanno andando. Ah, oggi le lettere di pollo, nuda, salata. E frutta. Dopo ti mando la posta della pasta al forno. Bello bene. A dieta, oggi a dieta. Oggi dieta, ehi, a fare. Aspetta, no. Giovanni pure a dieta. Vero è Giovanni a dieta, sì. Oggi fa il fioretto, che Marina mangia solo in salata. A me la seguita. Vuol dire che oggi non si mangia. E allora, oggi salatina fresca, poi tassinità. E Luca Gufo invece che la sardinella, tassinità. Di asino è, Luca? E allora, c'ha le bistecchine di asinella e la salsiccia di Luca. E lo prendo. Mangiando stai? Dormi o sei? E beh, Luca, cosa stai facendo? Aspetta, tagliando l'insalata. E Marina, ripresati. E allora fagli le coccole, che ha bisogno di coccole per riprendersi. E la bella. Ma lei ha bisogno di riposare, stare al calduccio, capito? Ma con le coccole si completa e guarisce prima. Un bacetto di tanto, vai, a lei che mi dà un bacetto. Ma la prima che mi devo dire, e allora, sì, stamani sono andato, mi hanno chiamato, mi ha chiamato 40, non è andato in cima, mi si era impegnato, mi sa che non va tutto, mi sono andato, non ve la rimonto, sono andato due minuti, quasi tutti, mi ha piazzato un bottoncino e era tutto fuori di occhio. Io l'ho registrata adesso già bambini, due minuti sono lì. Ebbene, il buccio ha battato. Ebbene. Ah, sai, me l'hai bucciato, me lo bevo. E io? Buono, buono, un bel buccio. Poi la posta, ti mando a posto. Mi raccomando, dopo ti rimando da io. Ehi, avala pure la mandarinetta, te la passa il forno. A me non mi piace abbassare il forno, la sai, non me la mandare passare il forno, perché non piace nemmeno vederli. E tu, inteso è Luca. A Luca la puoi mandare a chi è, gli arrabbiati, No, ma a me non mi piace, davvero, veramente. Non mi fa, non la voglio me ne manco vedere. Guarda che Luca mi sei il cuore, mi passa il forno, diglielo tu, Luca. Vai, vai, aspetta, se la mandi io, ti posso vedere cosa avrei in un forno. Io non rimango catturetti, capito? Ho detto tutto, non le mangio scatolette. Torna i fagioli, torna i piselli. Luca, diglielo tu che c'è l'imprenditore che passa il forno. Addio Marina. Bella bene. E Luca, buco lo qui. Luca, buco. Luca, sto mangiando crusti crocco, con il forno al caramello. Dopo il tappeto. aspetti, mando una foto. Rispondi. Hai visto Grazia? Sì. Sto guardando, un po' ti ha detto. Aspetta. Hai visto Grazia, eh? Tutto buono, tutto buono, Luca. Bene, bene. Non cominciare a mandare tutti questi messaggi di auguri, d'amore, di pace, di felicità. Luca, la Marina, padre Vittore, sì, sì. Bello bene, arrivati chi sono? Eia, eia, tutto buono, pochito, Paoletta, pochito, basta per pezzo, sto tassi. Oh, là, insomma, le mezzane sono. Ma la prima sveglia è carne. Sì, l'altra è carne, sì, sì, sì. E anche le testine ci sono. Non si distingue, ma già si vede che è carne. Poi ce n'è una sotto e quella in alluminio, cosa c'è? Sotto l'alluminio. E cioè patate pure. Quelle già si vede. No, quello che c'è sotto dentro l'alluminio non si vede. Allora, c'è la carne, sono le patate e ci sono le melanzane. Ehi, a me nel forno c'era pasta al forno, le patate, con un pezzo di carne che io non le mangio, come la pizzeria, e poi ci sono i cacciotti con le patate, tutti me le mangio, uno me lo mangio. Adesso stanno cucinando, poi a Debra gli faccio fare la foto e te la mando. Contenta, sì? Ai, che bello! Luca, bella insalata fatta! Cos'è in questa? Cos'è, Cassia? Se hai finito l'insalata. No, non si come niente ancora. No, neanche io sto mangiando, che cucinetto. Ancora è tutto la bocca. È una meno quattro. Ci metto broncio, c'è un quarto d'ora e ci metto broncio. Cazzo, è una fame, oia, la chitarra di occhi, oia. Oh, mi ha mangiato un po' di popcorn al caramello, buonarezzi, se non mi dico che me li mangio. Vai, vai. Buoni, Luca, li avete assaggiati al caramello? No. È un bidoncino come quelli della finta, anche appena più largo, quelli piccoli, quelli della finta rimbiancare, e costa anche poco, 1,90 euro. Sono popcorn al caramello, buon avviso, all'LD di questo. La buente della roba d'ottimi, oia! Oh, non ti credi, sta male che da via, 124. Buona, buona. Cande così è buona. Ah, la mattina in genere c'ero 124, 111, 90, questo periodo. Da quando mi sono preparato, c'ero così. E prima di pranzo, massimo, c'ero 140, 145, 135. La notte, qualche notte c'ero 160, 60. Però il pane non ne gioco mai niente, mica, ne mangio un poco, insomma. Non bevo bene, se mi mangio un bel di mela non mangio niente. Mi mangio una mela, una brutta. Eia, va bene, meglio così. Meglio così, continua così, va sempre bene. D'accordo. chiaro bene, e mi sento anche più luce, va. Mi sento anche più leggero. Andare, no, non me ne posso più mangiare in questo posto. Oh, la salata. Pure mamma c'è la stabile, vabbè, mia madre non mangia dolci niente. Qualche volta perché abbiamo mangiato, ieri notte ne ho mangiato due fichi, ti la giù fatti cura, tutti, non ne mangia niente. Io mangiamo quasi di barrettone, una settimana di barrettone venuti. No, stamattina a colazione non aspetta il panettone, è laggiù giù, me la giù mangiato tutta la giura che non ne mangia. Allora già visto un pandoro. Allora mi mangio visto domani a mangiare, una fetta. Eia, vabbè, dai. Mi raccomando, mangiati piano. E il sacchetto, non chiedo sia pieno, a chi si lo fa di male. Dai, ci sentiamo stasera, buon pranzo a tutti e due, dai. Ciao. Eia, ok, buon pranzo anche da parte di Paoletta, a tutti, a stasera, ciao, Giomari, buon pranzo. Vai, lui. Ciao, Giomari, buon pranzo, dai. Ok, grazie, accettate, ciao. E beh, Luca, ma che posso fare a mangiare? Ho capito. Ah, sto la preparando. No, ma niente, insomma. Sta ma niente. Eia, qua c'è fame. Picco, ritendi, sì. E allora? Picco, te ne ma niente. Ha già posato in banca. In Banca d'Italia. Scesa la palletta. Oh, è scusa. C'è Maglietti, non si sta ancora, oggi è domenica. Vabbè. Maria non sente bene, mangia e poi si riposa. Ah, allora sì, già va bene, sì, già. Va bene. Salutala da parte di Paoletta. Grazie, ciao a tutti. Eia. Ah, Paola, siccome ti conviene andare da un dottore bravo. La faccio conoscere io, giovane. Quella che c'ha è femmina. La dottoressa. Ma io ne faccio conoscere uno maschio, bravo. È bello anche. Cosa? Io te ne faccio conoscere uno bravo e bello di medico. E a chi? A Marina? Ma mamma mia non mi dà più. Ah, sì. No, per carità, no. La battuina, no. Che è un drogo. Oh, vabbè, non fraintendere. E farti curare, non fraintendere. Già lo so, ma già mi curo. È brava quella dottoressa. È brava, insomma, io lo so che io sono asmatica. Quindi lei è asmatica. Deve essere che ho preso colpa d'aria, mi è venuto questo dolore. E quindi sono messa in cerotto, ma se non mi cacca io domani vado. Ah, ho capito, ma comunque è proprio nell'aria il virus è nell'aria, c'è molta gente a letto, ma molta. La Marina così l'avevo mai vista, mamma mia, proprio tosse brutta c'ha. Deve fare, Luca, deve fare l'ariosò aiuta molto anche, capisci? Noi ci abbiamo fatto l'ariosò, mi ringrazia. Ma mi ho preso l'antibiotico. Poi io mi ho preso l'antibiotico, perché non mi sono gli antibiotico. Con e quello? E me lo tiro a me, non mi sa nulla. E con quello mi è passato a me. Sì, si lo sta facendo con, come si chiama, col, no, l'altro, Louis Brown. Non mi basta, c'è lo cronico ai bruchi, capito? Beh. bisogna stare attenti alla corrente. Eia. Mangiare avanti, spremita. E me ne ha mangiato due cassetti d'arancio, pure quelli altri, a spremita. Buoni. Fanno bene sì gli aranci. Quelli a certi, non piacciono a nessuno, mi la giù, gli la campagna, gli ho fatto le spremite, bisogna dato, bisogna che mi dia un litro, una brocca da un litro, tre tasse e mezzo, tre tasse e mezzo, e faccio bene. Anche se altro mi piace, perché mi metto un cucchiaio di zucchero, lo chiudo e non rimane altro acqua, già è buono. Tipo limoni, dai. Il limone un tempo me li mangiavo, crudi, tutti, come c'è l'arancia, li buttavo e me li mangiavo. Adesso mi bastava per l'intestino. E questo, quando vedo la malattia non si basta manco con i limoni. Ma tu che patente avevi, grazie alla D o la C? Io avevo la D, cioè pubblica, io potevo guidare pulma, il tram, tutto. Ma l'avevo presa le punti perché dovevo entrare all'asse a lavorare. Tutto ce l'avevo presa. Ma potevi guidare anche il tir? Io non guidavo il tir. Non so cosa, la sessione, l'altro, alla carpetta, la trentina, una gira più di gravati, la barilla, a canietto, e di trascura, a olio, a quattro, e alla gondra. Avevi tutte le parti, praticamente, so, c'avevi solo la C, poi ci avevi tutte le parti, vabbè. Ma ti hanno levato anche la B allora, non ce n'è più? No, ti devo portare il certificato, ma siccome sono mia assistenza, quelli che gli ho portati non li bastavano, volevano altri tre certificati, quella del cuore, e poi quella del tumologo e poi quello del diabetologo. E la dice, mi ha fatto il caffè e sono andato agli subai, la dice non me ne ha assistenza, e me ne sono andato, però ce l'ho sempre in pugno. Perché io quegli strumenti, e gli porto che me la rinnova, magari me la rinnova per due anni, ma non mi carica niente, no, già ti guidate abbastanza, non mi carica. Vabbè, per guidare la macchina intendo. Lo so, amici, lui ha tre anni, era sempre la macchina, sempre in prima, ha citato campagna, non guidando il lì. Così qualche volta, ma se non posso fare niente, cosa farà da fare in campagna? E allora, non mi interessava, era sempre per mangiare, l'ho venduta, non valuta la macchina. La dibuca oggi su internet, lui di debba e giù la stessa da puntata. No, ma l'appunto? L'appunto verde, era non valuta. Potevo già tenervi conto, dai, il motore è sempre, sempre da meccanico, no? Cioè, sempre sotto controllo, dai. Senti, l'ha portato da cosa? A Predanita, dove fanno anche le revisioni, da ritirare di zappa. Quando la giunta, il meccanico mi ha fuggito di lì, il dato mi ha fuggito di lì, la macchina non andava bene, come se l'ho portata là. Pagato però se avevi la macchina garantita si pulisci pure la bocca in macchina. Anche tornati tranquilli. Chi mi ha rimaniato di dinà? Ecco. Vabbè, ormai dai. Ti hai guidato per parecchi anni. Cosa io ho guidato anche questa parte di carabini, la macchina. E fatto il processo. Mi dice che sta facendo, mi ha riparato il processo. Mi ha trovato il motore, mi ha trovato il diritto. Io guidavo anche se sta facendo. Vabbè. Se uno già guida, può guidare pure senza patente. Io mi ha fatto guidare. andare, e sia andare che a tornare, a posto. Ho capito, note 50, che bello, eh. Dammi che la vanno in campagna, papà, fa. Fa buttarmi, fa andare, io mi faccio la parola. Ho capito, cavolo, io l'ho visto da poco un 8,50 grazie, uno di quelli chiusi, quelli che si usavano per portare i pacchi, dai, diciamo bello, nuovo bianco fiammante, cosa vuol dire? Poi accendere un negozio. È bello, e tirava anche da me nel voto, già mi sarebbe piaciuto. Ah, beh, però, bello già. Ho capito, ma scusa, se 8,50, non è la cilindrata 8,50, o il modello? 8,50 è il modello. Allora è, cos'è, 900, 1000 di cilindrata. Ho capito, la 600 che c'è adesso, praticamente, sicuramente sarà un 1000, un 900, un 1000. Quelli sì che erano mezzi, non questi che ci sono adesso. Adesso con il bagaglio rotaio, e quindi non posso rifiutare, perché se vuoi perso allora non c'è niente. Andai in campagna, su, se lo costumava a io faccio appena, dalla discesa di San Camillo, arrivavo quasi al secondo tornante, e qua, salendo da sotto. Ho capito, vabbè, i consumi erano proprio bassissimi. Allora consumare un bel altro che. Con quello mi faceva guidare anche andare a San Costantino. A Torrisù. E facevamo 3-4 giorni di là, però poi, pure a destra. Ho capito, vabbè. Va bene. Grazie, quelle macchine non ci non esistono più. Allora io ho guidato tutte le macchine. L'unica macchina che non ho guidato, mi sa che era la 500, vecchia. Quella non l'ho mai guidata. Ho guidato 126 bis, la 127. L'unica macchina che non ho guidato era la 500, vecchia. Io la ho guidata in tutte le macchine. Tutte. Quelle di prima. Le adesso no, però le ho. Io le ho guidate tutte. Anche quella con le marce sincronizzate, che acceleravi giù. Quella era della buon'anima di signor Tino Marcito, il padrone del ferroviario. Quando lavoravo lì, vi facevo da autista. Accompagnavo a Cagliari, alle fiere, dei camion, delle gru, dei polpi per prendere il ferro. Infatti, e aveva preso due camion lì e poi me li salivo io da casa, quel camion. Ho capito. No, vabbè, le macchine nuove ne ho guidato, facevo lavaggista, Anguilla, BMW, Mercedes, poi monovolume, ne ho guidato un bel, tutti i tipi di macchine. Facevamo anche consegne a domicilio. Anche al rifornitore che ho lavorato a Budivudi, all'Agis, quello vicino al bar Grassella, quello era di mio padrino, il distributore, lavoravo lì, c'era il lavaggio anche lì, e lavavo le macchine anche con gli spazzolucci, e le spostavo, le mettevo sotto, anche lì, da ragazzo lì, e Luca poi gli hanno aggiungato macchine, ma camion lo stesso, camion non ne va vicino. Le ho guidato tutti quelli vecchi, ho visto lì di grosso, con i marchi di Manubrio, l'U43, tu che li ho guidati, e anche di questi moderni che ne ho guidato. Ma Cappianca chi si di prima, chi si dava? Oh. Già lo so, vabbè. Prima gli erano mezzi abbastanza resistenti anche negli cinque. Facevi un frontale, la macchina rimaneva. Cioè, non ti fazia come ti aveva decimi euro di danno. Prima c'erano belle macchine, io mi ricordo il 124, la Giulietta, che belle le macchine, mamma mia. Intanto l'ha preso la Giulietta vecchia, ce n'è più di una a Sassari. Vabbè. Anni passati ormai, le macchine sono fatte di cioccolato, grazie. Fai un frontale a 20-30 km orari e ti fai decimi euro di danno. Le macchine e non fa rovescio, li tagliava a marciccio, sull'accetta, già li tagliava in cuciglia, si tagliava la poggia non si era già tagliata, allora se voglia di tagliare macchine, travagliando non fa rovescio, accetta, passiamo a carica, mi tagliava di più, si dava 1000 franchi in più alla chiesa. Non immagino. Vabbè, purtroppo. Gli anni passano per tutti. Così è grazia. Non viene come erano prima. Ho fatto il cioccolato. Vabbè. Dai, va, grazia. Ti saluto perché metto questi due piatti. La Maria c'è cucata. E almeno tengo ordinato qua. Dai. Ci sentiamo magari stasera. Dai, grazia. Ehi, a stasera. A stasera sei pronto. Ciao, a stasera. Vieni avanti, chi è? Il boia. Vabbè, un capo. Vabbè, mica c'è anche Graziano. Volevo dire Giuseppe. Chi c'è, Graziano? Ciao Giuseppe, non mi senti? Metti una mano pure a vedere se c'è vento, Graziano. Nuvoloso, Metti una mano a vedere se è nuvoloso, c'è qualche fulmine in giro. Ce lo vedo, sono nella veranda, c'è nuvoloso. Antonello, mi senti? Antonello? Giuseppe, mettiti al centro della cameretta, se no non ti sento. Cos'è? Non ho capito. Adesso ti ho sentito. A rimanere fermo dove sei in questo momento, se non muoverti, se no non ti sento io. È tanto meno graziato. Adesso mi senti, guarda, 3, 4, 5, 6, topo 1 o topo 2? Adesso vai bene. Graziano, mi senti? Sì, topo 3. Ha detto metti la mano fuori a vedere se c'è qualche fulmine, almeno ricevi bene. Oh, stavo toccando la roba, ma è ancora un po' umida. Ho capito. Eia. Antone, ma hai letto su Facebook, su coso, sul modello ICE? Oh, io da lì che non accendo il computer, se va minimo un mese, cos'è cambiato? Qualcosa o è sempre uguale? No, è cambiato tutto. Adesso stavo leggendo nel telefonino, che è cambiato un po' tutto. Adesso domani dobbiamo informarci. Sì, basta andare al campo e ce lo facciamo dare, la domanda del foglio di servo fa, ci vuole molto. Tanto, si è cambiato tutto. È tutto da rifare. Adesso vediamo cosa ci dicono. Ammazzo, lo rifà. Sì, grazie. Lo rifanno a marzo. Io state il 18. Sono andato e mi ha detto a marzo. A noi ci scade domani, il 15 gennaio. Ci scade e dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare. Che documenti dobbiamo portare, La stessa documentazione, se c'è carte di credito, libri bancari, macchina, numero di stanza, eccetera, eccetera. Sì, io faccio tutte le mattine che vado a fare in banca, hai capito, anche me con meglio. Sì, ci vuole la dichiarazione della carta, dell'impresa, il conto di prezzo. Antonello, senti tu, hai, portiamoli tutti quanti i libretti delle rapine che abbiamo fatto, dai. Sì, già glielo porto il libretto. Grazie, faccio la giacenza, anzi riporto quella e non c'ho manco una lira. Quello lì, e me la sono a posto. Sì, i libretti delle rapine. Ebbia, perché lo dice l'agenzia delle entrate, alla sera me l'ha detto a me. Vabbè, già lo so quello, ma a me se questo perché come mai lei ha aperto il conto e non c'è, e ci sono solo 5 euro? No, ho aperto il conto perché mi hanno dato 1200 euro tutto in un colpo, gli ha detto, e per non lasciarmi la casa, fammi rapinare, e allora li ho messi alle poste e li ho ritirati immediatamente. Come sono arrivati sono anche fitti, e l'agenzia delle entrate si è dato in culo. Ma è stato lo voglio. Già lo so quello. Adesso vediamo. Io già gli faccio il foglio di giacenza, la reposta, e glielo consegno al come si chiama, poi loro si arrangeranno. No, di te non ne faccio, non mi conviene, mi conviene tenerlo aperto, perché nel caso dovessero darci per dire faccia di nuovo per altri 6-7 mesi, e come è successo a me che non ho visto i soldi per 4 mesi, mi hanno dato tutto in un colpo, cosa faccio? Mi porto 1200 euro in casa e mi lascio il cassetto, così il primo imbecille che mi segue è qua, piglia e mi rapina. Invece quel caso lì, come ritiro direttamente, vado di consegnare le poste e poi me le ritiro piano piano. Quello già ce l'ho, già si arrangiano loro, già c'è il foglietto di quello. Faccio la fotocopia di quello, adesso lo leggono. Intanto tutti quei dati vanno direttamente dall'INPS e poi va all'ufficio delle entrate, già lo so, faccio le fotocopie. Tanto la casa è un terzo c'ho io, non c'ho neanche, non so manco il reddito della casa, figurati. Perché non abbiamo fatto ancora la successione, quindi. E adesso tanto scale fa poco, quindi vado sì, lì al monte me lo faccio rifare, vediamo che documenti ci vogliono, li riporto a Chiara, poi si arrangerà lì, capito? Faccio il foglio di disoccupazione, la fotocopia del foglio di residenza, eccetera eccetera, che vi chiedo per i fatti miei in due, capito? E vabbè, se c'è la macchina poi la rottama, dice la rottama, che sono queste legittime e basta. Già lo so, vogliono sapere tutto. A meno che adesso non cambia tutto alle prossime elezioni, perché secondo chi entra, se tranquillo, il foglio ISE lo elimineranno, sono sicuro che lo tolgono. E non può essere che uno deve sapere gli affari di casa degli altri, capito? Lo toglieranno del tutto e si farà il foglio ISA normale, come si faceva una volta. Sì, vabbè, tassali non te li tassano, a meno che non c'hai più di 15.000 euro. Se c'hai poca roba, manco ci fanno caso. Capito? Non è che uno si deve portarsi per forza i soldi in casa, ma sei matto. Anzi, a parte non ti fanno neanche ritiri. Se tu dovessi avere, per dire, una vincita a gatta e vinci, fai che vinci 10.000 euro, 15.000 euro mica li puoi metterli in casa, no? In automatico li mettere per forza alle poste, se vuoi farti rapinare in casa. Io sai che gli orecchi c'erano molto lunghi in questo periodo, capito, i rumeni e gli zingari, quindi bisogna andare a scortarti e dare la roba in casa, cioè in casa, alle poste, fare come lo ritiri direttamente alle poste in testa e basta, e poi piano piano lo ritiri, perché più di 1000 euro, cioè più di 3000 euro non puoi ritirare. Tranquillo, tranquillo, che quello non succede mai, perché i giudici studi che ho, come entrano da una mano escono dall'altra. E vabbè, quelli sì, ma sentiranno tutti in un colpo, Giuseppe, il problema è quello, hai capito come è successo a me, che mi hanno dato 1200 euro tutti in un colpo, cosa facevo, me li portavo a casa, a che cosa? Ho preso e li ho messi direttamente le cose, piano piano me le ritirano, anzi me le ho già mangiati la verità, perché sono andato, mi sono comprato il televisore, eccetera, eccetera, e quindi li avevo quasi tutti spesi. Però fatti i conti, magari stanno 6 mesi senza darti niente e ti ritiri tutto a un'ora, cosa fai? A parte che se ti seguono ti picchiano pure. Già lo so. Vabbè, quello non è il problema, non è quello lì il problema. Il problema è questo, che bisogna informarci cosa ci vuole. Io quando vado da quella là, dal sindacato dietro i pompieri, dico cosa ci vuole. È la stessa cosa, che non c'ho nulla in testato. Chiedo come ti devo portare, cioè, domani vediamo cosa mi dice, boh. E domani ti dirà qualche cosa, senz'altro. Poi se vogliamo, se ce la faccio ci vado martedì mattina io, presto, faccio il modulo, dico devo fare il rinnovo del foglio visa, vedere cosa devo, si può. Se dice se è cambiato qualche cosa, e così qualcosa è cambiato, ma non più di tanto. Tutto lì. Però se tutte le altre voci sono uguali, non me ne fotte nulla. Quelli li hanno stanziati la regione, quindi sarà questione di qualche settimana, perché l'hanno rinnovato, ci sono più di 14 milioni di euro, ci sono stanziati, capito? Vabbè, quello sì, io mi ricordo che avevano detto alla TV12 che in pratica chi ha fatto il resi del 2017 ritira 500 euro quest'anno qua, ogni mese, intorno ai 5, come prima, tale uguale in pratica, in pratica te lo rinnovano, perché il resi della regione non c'entra nulla col resi dell'INPS, quello dei 55 anni, è tutta un'altra cosa, capito, un'altra storia. Appunto perciò, io devo ritirare solo quei due mesi, capito? Quei due mesi, gennaio e febbraio, quelle 400 euro che mi mancano, hai capito? E te li hanno stanziato tutti assieme, come l'ha fatto a me, mi hanno dato 600, 1200, figurati. Avanti, grazie. Ci sentiamo dopo, adesso faccio il nostro esatto. A dopo. E io, d'accordo, a dopo allora, grazie. Si sta estendendo, stai cucinando, va bene. E tutto quanto di dietro lo sta facendo, adesso sta facendo la puntura. Ho capito, facendo? Ho detto, stava facendo la puntura, deve essere. Ah, probabile, boh, niente di strano. Vado a andare a fischio. Fischia. Hello. No. Avanti, chi è? Ciucciù. Avanti, mostro. Antonello. Dimmi. Vabbè. Nulla, per il momento niente, c'avevo un apparecchio di Franco da controllare, mi sono integrato audio, adesso l'audio ce l'ho, ma mi manca l'uscita a sta frequenza e devo controllarla, per cosa diavolo, siccome gli è acceso un po' di birra dentro, non da me, no, dal padrone. Adesso devo controllare che avrei quale pezzo che ho bruciato da cambiarli. Ma chi? Franco California? Però l'apparecchio è quello di Giulio Coso. Padre Pio. Ah, ho capito. Come ce l'ha lui quell'apparecchio? E gli ha regalato, io gli ho cambiato il vibrato audio e il transistor, il primo che c'è, quello che alimenta tutto, integrato audio eccetera, gliel'ho cambiato, ma c'è un'altra pacata cosa c'è? Ho capito, ho capito. E che marca è quel baracchino? Il coso è la l'Indicom, mi pare si chiama, o come li avevo, quello dove c'è stato un canale. Ma quello modificato? No, è originale, aspetta che te lo dico che marca è. L'ala 87. Cos'è? L'ala 87, 281 canali c'è. Ah, ho capito, ho capito. Ma una volta che gliel'ha messo a posto deve venire a ritirarcelo e ti fai pagare la manodopera. E beh, è logico. Ho capito, ho capito. Vabbè, dai, che mi sto seguendo un film a Italia 1, dai. Ci sentiamo dopo. E io, d'accordo.